America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Spero che tutti abbiate passato un ottimo Natale. Auguri per un buon Santo Stefano. Qua in America qualcuno festeggia il Boxing Day, di ispirazione, come dire, britannica. E beh, insomma, stiamo per chiudere il 2016, una chiusura un po' malinconica. Abbiamo avuto anche una coda di attacchi terroristici, di polemiche post-elettorali qui negli Stati Uniti, e pensavo magari di questa settimana che ci attende prima della chiusura dell'anno, a una carrellata di quello che è successo in questo 2016, un anno straordinario, devo dire, sotto molti punti di vista, ma in particolare un anno storico per un fatto che prevale su tutti, e cioè Donald J. Trump ha vinto la Casa Bianca contro Hillary Clinton, andando contro ogni previsione possibile, inclusa, devo dire, la previsione del sottoscritto, che in qualche modo forse si accodava al pensiero comune, ai sondaggi di sondaggisti che poi hanno rivelato di aver preso delle cantonate spettacolari, e di una certa atmosfera, devo dire, che si era creata anche nel mondo giornalistico, perché io stesso a un certo punto, all'inizio della campagna elettorale a due, della battaglia fra Hillary Clinton e Donald Trump, avevo identificato alcuni punti molto deboli di Hillary. Hillary era un déjà vu, quindi non rappresentava nulla di nuovo, l'America cerca qualcosa di nuovo, Trump era una novità. Hillary era sicuramente la candidata più debole, mentre invece Donald Trump era quello più forte. Hillary ha avuto difficoltà a vincere contro Bernie Sanders, Donald Trump ha sbaragliato 16 concorrenti e infine Trump era un outsider e Hillary era un insider. Pur partendo da questi presupposti che sembravano deporre a favore di Trump, alla fine la psicologia, la psicosi collettiva era per una vittoria di Hillary. Così non è stato, e la grande sorpresa è avvenuta alle 3 del mattino del 9 novembre. No dream is too big, no challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach. America will no longer settle for anything less than the best. Ecco, avete sentito Donald Trump, me lo ricordo come fosse oggi, Donald Trump che esce sorridente con le figlie che lo seguono con questi deliziosi vestiti celesti, che si rivolge raggiante al suo pubblico e dice: nessun sogno è troppo grande, nessuna sfida è al di fuori della nostra portata, nulla di ciò che desideriamo per il nostro futuro è al di fuori delle nostre possibilità, l'America non si accontenterà di nient'altro che del meglio. Dobbiamo riappropriarci del futuro della nostra nazione, dobbiamo riportare l'America ad essere grande. Ecco, applausi naturalmente, una nuotata, devo dire, entusiasmante, seguire lo sviluppo stato per stato di queste elezioni, una grande prova della democrazia americana. Ecco, ci sono state delle polemiche recenti, proprio la settimana scorsa, una settimana fa, quando i grandi elettori alla fine hanno votato formalmente per il nuovo presidente americano. Beh, molti democratici hanno detto: ma dovremmo cambiare questo sistema, perché avere dei rappresentanti degli stati, che siano loro a determinare seppure formalmente una vittoria, è anacronistico, come è anacronistico che stati piccoli finiscano per pesare più di stati grandi come la California. Dovremmo puntare sul voto popolare e fare come fanno tutte le grandi democrazie. In effetti, se ci fosse stato il voto popolare, Hillary avrebbe prevalso, aveva 2 milioni e 800 mila voti in più di Donald Trump. Questo è un elemento che secondo alcuni indebolisce la presidenza Trump, che non ha la maggioranza della popolazione americana alle sue spalle. Però l'importante è arrivare alla Casa Bianca, e certamente Trump avrebbe fatto una campagna diversa se non fosse stata la campagna elettorale americana e il processo democratico organizzato e strutturato attorno ai grandi elettori che ciascun Stato esprime. E quindi la concentrazione non è stata a livello diffuso nazionale, ma è stata su quegli Stati chiave dove i due si sono scontrati, e alla fine Trump ha vinto e Hillary ha perso. Quelle erano le regole del gioco. Eppure, vi dicevo, c'è stata un po' di resistenza, c'è stata una dichiarazione secondo me antipatica da parte proprio di Bill Clinton, il quale a un certo punto dice: abbiamo avuto contro l'FBI, abbiamo avuto contro i russi, però abbiamo vinto lo stesso il voto popolare, ma alla Casa Bianca non ci siamo arrivati. Io credo che sia invece arrivato il momento di voltare pagina, di vedere come il 20 di gennaio Donald Trump comincerà la sua presidenza, ma facciamo nel frattempo una piccola carrellata dei momenti salienti salienti, a partire dal debutto di Donald Trump in un dibattito, pensate, il 6 agosto del 2015, quindi stiamo parlando di un anno e mezzo fa, quando una giornalista televisiva che si chiama Megyn Kelly, una grande celebrità, una giornalista che è una tigre, che riesce a imbarazzare qualunque dei suoi intervistati, in realtà si è scontrata con Trump. Sentiamo. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs. Your Twitter account is only Rosie O'Donnell. Ecco, sentite come si beccano i due. Megyn Kelly attacca Donald Trump e gli dice: beh, insomma, signor Trump, lei ha chiamato le donne porcellone, dei grossi maiali, le ha chiamate sciattone. E a quel punto Donald Trump, nel momento in cui sembra chiuso nell'angolo, interrompe la Kelly, che raramente si fa interrompere, e dice: no, dice, è vero, ho detto alcuni di questi epiteti, però li ho usati solo con Rosie O'Donnell. E a quel punto il pubblico è esploso in una grande risata che ha neutralizzato l'attacco della Kelly e ha dimostrato immediatamente che Trump sarebbe stato un candidato temibile. Perché? Beh, voi non conoscerete Rosie O'Donnell, ma è una signora, diciamo, piuttosto voluminosa, è una donna lesbica, molto di sinistra, che attaccava in continuazione Donald Trump. Questo è il background che ci porta a questa storia. Poi il battibecco continua, perché la Kelly cerca di dire: ma insomma, il suo account di Twitter è pieno di insulti alle donne, ma lei pensa che questo sia l'atteggiamento di un uomo che possiamo eleggere come presidente? E Trump a quel punto contrattacca su un altro elemento che diventerà dominante in queste elezioni e dice: uno dei problemi più grossi di questo paese è l'essere politically correct, la correttezza politica. Sono stato sfidato da talmente tante persone che non ho tempo di occuparmi della correttezza politica, e sinceramente questo tempo non ce l'ha neanche l'America. Continuiamo a perdere, intanto perdiamo contro la Cina, contro il Messico, con chiunque, ma ci preoccupiamo di essere politicamente corretti. Ecco, questo elemento della correttezza politica è diventato un altro elemento dominante. Trump, in quel primo dibattito, ha toccato due nervi esposti soprattutto sulla correttezza politica, che immediatamente lo hanno catapultato a diventare un candidato credibile. Poi il resto, naturalmente, di questa corsa tra primarie e confronto con Hillary Clinton è storia. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Ecco, facciamo un balzo in avanti, arriviamo allo scontro diretto, ai dibattiti televisivi fra Hillary Clinton e Donald Trump, ma soprattutto a un punto di svolta. Il video che avete ascoltato, l'audio video che avete ascoltato, è quello che generò, come dire, lo scandalo sessuale per Trump. Trump dice: sono come un magnete per le donne, come le vedo comincio subito a baciarle. Ecco, dopodiché, una volta che l'hai fatto, poi loro ti lasciano fare qualunque cosa. Io, come dire, le prendo per, diciamo, il basso ventre, per non dire qualcosa di peggio. Ecco, questo video ha generato un momento di disperazione nella campagna Trump, un colpo a tradimento, dicevano i fedelissimi di Trump, erano delle battute da spogliatoio. In realtà, in quel momento, i sondaggi a favore di Trump sono crollati. Erano già crollati una volta prima, quando Trump si scontrò con la famiglia islamica dei Khan, una famiglia pakistana che aveva perso un figlio in guerra, e lui si mise a fare polemica diretta con questi signori, irritando eroi di guerra, militari e quant'altro, e poi fece un altro scivolone quando rifiutò di dire che avrebbe accettato il risultato elettorale. Ecco, nonostante questi scivoloni, alla fine, secondo me, con una corsa finale straordinaria, Donald Trump è riuscito a rimettersi in piedi e a vincere queste elezioni per la Casa Bianca del 2016. Aveva davanti a lui un concorrente, Hillary Clinton, davvero simbolo stesso di quello che è l'establishment, un candidato designato a tavolino, un candidato che doveva essere lì perché era la moglie di un ex presidente americano, perché era stata appoggiata dal presidente Barack Obama. Eppure, beh, questo conferma un po' quello che vi dicevo all'inizio, l'aspetto istintivo che avevo dopo aver seguito molto a lungo questo paese. Cioè, questo paese cerca di guardare in avanti e non indietro, cerca di guardare alle persone che sono spontanee e non costruite a tavolino, e Trump era certamente più spontaneo di Hillary. Cerca delle persone che rappresentano la novità, magari possono portare delle incognite, ma certamente rappresentano la novità. Come dico sempre nelle mie trasmissioni, questo è un paese che guarda sempre alla nuova frontiera, e in qualche modo Trump ha rappresentato la nuova frontiera contro la vecchia.